9 in punto. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Buongiorno a Mario Mauro, ministro della Difesa. Come sta? Buongiorno. Ci sente? Prego. Buongiorno, come sta, ministro? Bene? Bene. Bene, tutto a posto. Il governo come sta? Altrettanto bene. Sta bene il governo, perché vedo un po' di tensioni che circolano, soprattutto insomma sul ministro Saccomanni in merito all'IMU, tensioni che arrivano dal PDL. Reggerete, secondo lei? Il ministro Saccomanni non solo è un ottimo ministro, ma è anche quel ministro che ha avuto il merito fin dal primo giorno di invitare tutti quanti noi a un aspetto di metodo che io trovo molto interessante. Saccomanni ci ha detto, cioè, per evitare i cosiddetti tagli lineari, cioè tagli indistinti e irragionevoli alla spesa pubblica, fate l'esame in casa vostra, entrate nel merito e cercate di capire che cosa realmente si può migliorare e sulla base di questo facciamo un confronto nel governo per risolvere i grandi temi di natura politica. Quindi anche il tema cosiddetto dell'IMU sarà il riflesso di questo lavoro, perché sulla base di queste analisi che i ministeri stanno conducendo troveremo evidentemente quelle poste di bilancio che possano soddisfare le priorità politiche indicate dal Presidente Letta all'interno del discorso che ha fatto e che ha meritato la fiducia del Parlamento il primo giorno di insediamento del governo. Lei ha già identificato qualcosa all'interno del suo ministero, delle spese che si possono tagliare a questo punto in maniera selettiva e non lineare, come giustamente diceva, perché tanto ci siamo scagliati tutti quanti contro i tagli lineari, quanto invece siamo tutti convinti che in realtà qualche taglio all'interno dei ministeri, non solo all'interno dei ministeri, all'interno dell'apparato pubblico in generale, un po' più selettivo si possa fare. Avete già identificato qualcosa? Ma guardi, i primi giorni di gestione del mio ministero sono cominciati all'insegna delle polemiche per quanto si era tagliato nel settore della difesa, per esempio su tutto quello che era l'aspetto, tra virgolette, celebrativo della funzione della difesa. Questo ha riguardato non solo la parata del 2 giugno, ma il fatto, come è noto, che noi abbiamo di fatto cancellato tutto l'aspetto di comunicazione che era relativo alle feste dell'esercito, dei carabinieri, della marina, che sono diventate a quel punto semplicemente la comunicazione ai reparti del significato di quelle ricorrenze volta per volta, e devo dirlo con non poco risentimento da parte delle forze armate, perché quei momenti erano un momento di grande non solo comunicazione ma anche identificazione tra i cittadini italiani, il popolo italiano e le forze armate. Se la sono presa un po' con lei per questa scelta? Io credo che tutti quanti stiamo facendo sacrifici importanti e questo, le decisioni che ne conseguono non sono sempre popolari. Io potrei farle vedere videate delle mie pagine di comunicazione in cui il fatto di aver deciso di non far volare per esempio le frecce tricolori è stato forse giustamente stigmatizzato da migliaia di cittadini che tendono a una forte identificazione con simboli dell'unità nazionale. Però questo una volta di più ci dice che siamo in circostanze straordinarie, che dobbiamo fare grandi sacrifici, che questi sacrifici vanno fatti cercando di renderci conto ogni volta di più del significato che hanno le cose, e noi abbiamo uomini che arrivano a sacrificare la propria vita in paesi lontani e dobbiamo diciamo prima di tutto dare priorità e sottolineare che questo anche sacrificio ha un senso profondo. E qual è questo senso? Noi siamo attori con altri paesi di quell'operato di contenimento dei conflitti che porta alla pace. Sappiamo quindi che costa essere per esempio in Afghanistan da più di 10 anni, ma con le stesse ragioni siamo in Bosnia da 20, siamo nel Kosovo da 15, perché se non avessimo contribuito alla stabilità di queste aree avremmo avuto il deflagrare di conflitti, e dobbiamo sempre ricordare che laddove la comunità internazionale ha mostrato titubanza, come in Ruanda, non aver inviato poche centinaia di uomini ha comportato che in 54 giorni perdessero la vita 800.000 persone ammazzate a colpi di macete, non con i bombardamenti. Circostanze eccezionali, diceva lei, sono naturalmente le circostanze economiche nelle quali ci troviamo, che comportano, insomma, scelte che possono essere considerate dolorose. Molti non considerano dolorosa la scelta di rinunciare ai famosi F-35, e là torniamo, ministro. Allora, ma li compriamo oppure no questi F-35? Ma guardi, in realtà questo è un aspetto un po', diciamo, curioso di tutta la vicenda. Intanto, diciamo, se parliamo in termini generali, come è comprovato da un istituto indipendente che è per esempio il SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, che viene normalmente utilizzato per esempio da quotidiani italiani anche come il Manifesto, come punto di riferimento, la spesa militare in Italia si è ridotta tra il 2003 e il 2012 del 19%, è di gran lunga la maggiore riduzione tra i paesi occidentali, è l'unica a due cifre. In paesi come la Germania e la Francia c'è stata questa riduzione in un range che va tra l'1 e l'1,5%, in paesi come gli Stati Uniti è aumentata del 32%, per non parlare di Cina e Russia che hanno aumentato la propria spesa militare del 175% la Cina e del 111% la Russia. Ma torniamo ai nostri conti. Questa riduzione è stata fatta tant'è che il programma, che era cominciato, se non ricordo male, con circa 150 aerei ipotizzati nel 98, con decisione del governo D'Alema e di quel Parlamento, è stata poi reiterata da tutti i governi successivi e sempre un po' contratta, perché già erano all'orizzonte difficoltà di spesa. Quindi siamo arrivati ai 131, nel frattempo c'era il governo Prodi e quindi anche i partiti che facevano parte del cartello dell'Unione e che hanno approvato i bilanci italiani del 2006, del 2007 e del 2008 hanno ovviamente votato già gli F-35. Qualcuno di questi partiti è sopravvissuto in Parlamento con nuove sigle, qualcuno di quei parlamentari forse farebbe bene a ricordarsi che quegli aerei li ha già votati. E d'altro canto, se ci trasferiamo all'ultimo step, è stato siamo passati ai 90, il governo Monti, siamo passati ai 90 con decisione del mio predecessore De Paola, 90. Sì. Ora noi abbiamo una parte notevole della nostra aeronautica militare che va in pensione, non tanto come militari, ma come aerei. E questi aerei vanno sostituiti se vogliamo conservare un'aeronautica militare. E gli aerei non si comprano al supermercato, bisogna programmarli per tempo, pianificarli, quindi per poterli avere disponibili tra qualche anno è occorso quella pianificazione che è cominciata nel 98. Interrompere quella pianificazione comporterebbe risparmi per questi anni zero e purtroppo una crisi dal punto di vista della realizzabilità nel momento in cui verrebbero a servirci. Per questo io penso che sia più che ragionevole, sapendo quanti sacrifici ha già fatto il bilancio della difesa di questo Paese, per ragioni assolutamente giustificabili peraltro, tener conto di dare la possibilità alle nostre forze armate di rimanere appunto armate. Uno poi può dire io non voglio le forze armate, ma nella nostra Costituzione c'è scritto qualcosa di diverso. E quindi lei dice li compreremo senza se e senza ma, almeno quei 90. Guardi, queste formulazioni sono forse molto care a chi dal punto di vista giornalistico deve spiegare le cose. Io preferisco dire che se consideriamo anche quello che accade nell'area sud del Mediterraneo, pensare all'Italia che possa mantenere un grado di difesa efficiente e un grado di diciamo, mobilitazione delle forze armate che possa nel contesto delle alleanze politiche di cui fruiamo, NATO e Unione Europea, essere parte di quell'aspetto di contenimento di conflitti che porta alla pace, questo io penso che sia l'assetto di cui l'Italia, da cui l'Italia non deve prescindere. E però è vero anche che in altri paesi partner di questo progetto dell'F-35 comunque ci stanno facendo una riflessione sopra. La Turchia ha bloccato i primi acquisti e il Canada ha incaricato, se non era una commissione, di vedere se ci sono altre opzioni disponibili sul campo. Forse è il caso di farlo anche per l'Italia, anche perché insomma ci sono molti dubbi sulla qualità di questo prodotto, molto banalmente, insomma, sulla qualità di questo F-35? Guardi, in realtà la qualità è l'unica cosa che non mette in dubbio nessuno, mi spiego. Questo programma, come tutti i programmi industriali, pensiamo anche ai programmi che riguardano molto più semplicemente il percorso di crescita dal punto di vista dello sviluppo industriale, molte automobili, che addirittura vengono magari richiamate dalle officine per poter essere sostituite quando sono già in produzione. Ma per quello che riguarda questo programma, che diciamo è sotto controllo di leggi severe, quelle statunitensi, dove si sa si può applicare anche la class action, quindi sarebbe assolutamente controproducente per un'azienda produrre qualcosa che poi diventa la fonte per essere sepolta di ricorsi. Ma in ogni caso quel programma ha manifestato, come ovvio, come giusto e come doveroso, dei problemi che sono stati rilevati, quindi nella fase produttiva questi problemi troveranno soluzione nella stragrande maggioranza. Le cose perlomeno che vedo anche su molti blog, la questione cosiddetta dei fulmini, hanno già trovato soluzione. E quindi avremo un aereo di nuova generazione, di cosiddetta quinta generazione, in grado di fare egregiamente il proprio lavoro con tecnologie molto innovative. Detto questo, le commissioni e quindi l'analisi, la capacità di poter poi decidere su quando prendere gli aerei, qual è il momento più conveniente, qual è il momento in cui si risparmia di più, tutti questi aspetti fanno parte anche dell'attività gestionale di un ministero come il Ministero della Difesa, dove esistono strutture e istituzioni come il Segretariato Generale della Difesa che presiede questo punto, questo particolare, e tutte queste strutture nel rapporto democratico con il Parlamento, che è l'ispiratore del fondamento dell'orientamento delle nostre politiche, e con i doveri esecutivi del governo verranno di volta in volta affrontate. Vorrei ricordare a tutti che è stato il governo che ha fatto la riduzione da 131 a 90, quindi non capisco perché debba esserci un clima di contrapposizione così forte rispetto a procedure che sono a salvaguardia della nostra vita democratica e in cui è giusto che ognuno faccia il suo. Quanto poi a paesi già citati come il Canada, al vertice NATO io ho incontrato i colleghi britannico, turco, canadese che hanno discusso con me l'ipotesi di un club F-35, cioè dei paesi che sono coinvolti nel programma, proprio per fare ulteriori economie di gestione nel programma, mettendo a fattor comune l'aspetto che siamo integrati in un'alleanza politica, la NATO, dove se ci si dota alcuni paesi o molti paesi di questa struttura di uno strumento d'arma comune, è ancor più pensabile che si possano fare molte economie, addirittura essendo uno dei centri per l'assemblaggio Cameri in Italia, l'unico dell'area fuori dagli Stati Uniti in area europea, potrebbe essere quel centro, a maggior ragione, il punto di riferimento per tutta l'attività manutentiva, per esempio, un vero e proprio hub per la gestione dell'F-35. C'è qualche ascoltatore? Già, sentiamo Dario da Roma. Mi raccomando, brevi. Dario, buongiorno. Buongiorno. Prego. Senta, la chiamo per gli F-35. 35 mi sembra, sì. Questi aerei che stiamo ordinando. Mi scusi se non sono tanto chiaro, ho 82 anni, una volta ero un uomo brillante, cioè una laurea con 110 lode. Mi sembra brillantissimo anche a quest'età. Prego, lei prego, è molto gentile. Vada. Senta, volevo dirle questo, io sono assolutamente contrario, perché non siamo un paese che ha soldi da buttare via, noi abbiamo delle cose da controllare, delle spese fortissime che non sono coperte da niente, tipo, beh, è inutile che le sto a raccontare, tanto le conosciamo. Quindi io volevo sapere, in tutto questo, a parte il fatto se sia una cosa che deve essere approvata dal Parlamento, dal Governo, eccetera, ma il popolo può dire qualche cosa alla cittadinanza? Cioè, è pensabile che si faccia un referendum per fare annullare l'eventuale decisione che venisse presa? Grazie Dario. Non so, ministro, se è oggetto di trattato internazionale e quindi si può fare un referendum sopra oppure no. E al di là di tutto, le dico, Dario non è l'unico che la pensa così. Abbiamo molti ascoltatori che ci scrivono anche sulla nostra bacheca Facebook dicendoci, insomma, ragazzi, il momento è quello che è. Questi aerei non si hanno da comprare in questo momento. Ma in realtà, intanto ribadisco, è il modo come si imposta il problema che è quantomeno curioso. Si parla di aerei come se noi dovessimo decidere adesso se comprarli, quando ne stiamo portando avanti lo sviluppo da 20 anni. Portando avanti lo sviluppo vuol dire che abbiamo già messo miliardi nella costruzione di questo aereo. Quindi cosa vuol dire che li stiamo comprando? Soprattutto poi, se si guarda gli aspetti di natura economica, lo sviluppo del programma è una delle poche cose che porta soldi in Italia, perché a fronte di una spesa che sarà circa di 11,8 miliardi, si immaginano ricavi per tutte le realtà, diciamo, coinvolte nella produzione di questo aereo che vanno intorno ai 15 Però miliardi. ci sono anche E poi i quindi. costi di gestione degli aerei stessi, no? Che sono piuttosto alti, Ma ministro. guardi, se parliamo dei costi di gestione, chiunque si occupi di queste cose le potrà spiegare che se andassimo avanti con i costi di manutenzione di aerei che hanno 40 anni come i Tornado, i costi di gestione sarebbero alle stelle rispetto a quelli degli F-35. Quindi in realtà, ribadisco, se un paese che si è scoperto una vena, tra virgolette, pacifista e ha deciso di non avere le forze armate e di non avere l'aeronautica militare, beh, questo è un orientamento politico e credo che dovrebbe essere rispettato. Se un paese che sa che sulla base del dettato costituzionale avere le forze armate in condizioni di efficienza minima vuol dire non solo la difesa del territorio, ma anche il contributo attraverso la comunità internazionale e in ordine alle indicazioni che la comunità internazionale fornisce, perché un conflitto che accade a 10.000 km di distanza può cambiare la vita e il mondo anche del contesto europeo, allora questo paese deve tirare le conseguenze logiche. In realtà ciò che voglio dire è che ragioni del tipo l'Italia vuole fare la guerra al mondo cade da sé, perché è sotto gli occhi di tutti ciò che il nostro paese ha fatto a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. E la ragione che questo non sia il momento in cui ce lo possiamo permettere va compresa attraverso il fatto che intanto il momento in cui questi soldi vengono fuori non è oggi, ma è in un tempo molto lungo che accompagna il programma. E in secondo luogo, in ogni caso, che già abbiamo più volte deciso di contenere questa spesa per ragioni legate alla crisi economica finanziaria e probabilmente queste osservazioni non mancheranno anche nel prossimo futuro. Ma ciò che sta a me a cuore come Ministro della Difesa far capire è che non è immotivato, irragionevole e meno ancora espressione di una volontà muscolare o di un'esibizione muscolare dotarci di un'aeronautica militare. L'ultimo paio di domande che ho, perché so che poi ci deve lasciare, poi proseguiremo la discussione in particolare sugli F-35, e però sono un paio di domande, allora, una politica e una ancora sui tagli di spesa. Ci chiedono gli ascoltatori dei generali via sulla nostra pagina Facebook. No, qualche tempo fa è uscita il dato, l'avevo visto sull'Espresso se non sbaglio. Noi abbiamo per esempio un numero di generali che in rapporto al numero di soldati è tra i più alti, se non addirittura il più alto del mondo. Forse qualche taglio da quel lato si può fare? Direi che è già cominciato perché la legge delega prevede, anzi ancora prima della legge delega, noi abbiamo misure abbinate alla spending review che prevedono, se non ricordo male, un taglio del 20%, se non ricordo nel dettaglio, di questa articolazione, diciamo, delle carriere. Peraltro è un meccanismo, quello poi della legge delega, che deve essere però suffragata dall'approvazione dei decreti delegati di cui è direttamente responsabile per l'appunto il Parlamento e che deve essere fatto entro il gennaio 2014, tagli ulteriori al personale della difesa, stiamo parlando di quasi 40.000 unità. In testa a questi tagli di 40.000 unità c'è il taglio dei gradi, chiamiamolo così, che riguardano gli alti livelli di aeronautica, marina e esercito. L'ultima domanda riguarda il suo partito, Scelta Civica, e il suo ruolo all'interno della maggioranza. Innanzitutto la situazione del partito, che abbiamo intuito essere di discreta tensione, e poi appunto quello che è successo la settimana scorsa. Insomma, io vorrei capire se vi ritenete soddisfatti al momento all'interno di questa maggioranza oppure no. Guardi, in ordine al governo, io credo che questo governo debba mantenere, diciamo, una caratteristica primaria, cioè il coraggio, perché siamo un governo frutto di una circostanza eccezionale, anch'esso stanno insieme quelli che in teoria insieme non potrebbero stare, questo ci deve far fare cose grandi. E quindi il fatto che Scelta Civica mantenga il punto su l'inderogabilità di riforme profonde di natura strutturale che ci rendano, rispetto al contesto europeo, protagonisti nell'Europa e non antagonisti dell'Europa, credo che sia, diciamo, il punto qualificante anche delle caratteristiche con cui Scelta Civica è nata. Perché siete andati un po' lentini fino ad ora, no? Diciamo. Come governo, no, no. Dico. Guardi, più che lenti, noi ci siamo dati dei tempi per sciogliere dei nodi. Questo tempo, come è noto, riguarda questioni di cui si fa un gran parlare, dall'IMU all'IVA e tante altre questioni strutturali che sono dietro, e questo tempo il Presidente Letta in più di una circostanza è stato molto chiaro, ha detto che entro l'estate questi nodi saranno sciolti. Io non solo ho la massima fiducia in questo governo, ma ne sono anche un forte e convinto sostenitore, oltre che un membro, e quindi non ho dubbi in questo senso. Vorrei con questa mia dichiarazione di oggi far sentire anche la mia vicinanza, il mio convinto appoggio al lavoro che sta svolgendo il Ministro Saccomanni. Quindi credo che ogni cosa sarà fatta in modo ponderato, nel dialogo con il Parlamento, ascoltando anche quello che viene dal cuore pulsante del Paese. E credo che ieri le espressioni utilizzate dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio durante l'Expo siano la migliore testimonianza di che cosa siamo chiamati a vivere. Siamo chiamati a vivere il tentativo di rilancio dell'Italia. Grazie al Ministro Mauro per essere stato con noi, buona giornata. Saluto Nicola Latorre, Presidente della Commissione Difesa al Senato, e chiedo scusa se l'ho fatto attendere tanto. Buongiorno Latorre. Buongiorno. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo, Nicola Latorre, Presidente della Commissione Difesa del Senato. Allora, io so che lei naturalmente è a favore dell'acquisto degli F-35, l'impressione però, come già chiedevo in parte al Ministro Mauro, insomma, ci sono una serie di paesi che stanno avendo dei ripensamenti. E l'idea, mi consenta l'espressione romana e la brutalizzazione della cosa, l'impressione è che negli ultimi anni si è diventata un po' una sola, nel senso che insomma le qualità tecnologiche per certi aspetti e la qualità del mezzo è in dubbio da una parte, no? Per una serie di aspetti. I primi test non sono stati positivi comunque, no? E questo, diciamo, è un elemento. E dall'altra parte i costi sono lievitati in maniera pazzesca. Forse un ripensamento vale la pena farlo o no? Ma guardi, intanto anche questo classificare chi è a favore e chi è contro, io credo che l'approccio con questa discussione debba essere un po' più rigoroso. Tra l'altro, come lei giustamente osservava, qui ormai vedo che, così come per la nazionale di calcio, siamo tutti ormai esperti di aerei, di aspetti anche tecnici, e abbiamo già sentenziato che questo è un aereo che probabilmente si profila come una sola. Io ho letto anche il rapporto del Pentagono, come tutti i programmi di realizzazione degli aerei, è chiaro che questo è un aereo che, su cui si potrà esprimere un giudizio compiuto quando il programma sarà definito, e le previsioni di conclusione di questo programma è il 2015, adesso si stanno sperimentando i prototipi che naturalmente, come tutti gli aerei, hanno dei difetti che progressivamente devono essere superati e che si stanno superando. Io credo che una sola non sia interessata a prenderla l'Italia, non siano interessati a prenderle gli Stati Uniti, e dunque credo che i protagonisti esperti di questa roba qui si stiano impegnando perché questi difetti vengano superati, perché ci sono e perché è normale che ci siano. Tutti gli aerei, quando vengono realizzati, sia quelli civili che quelli militari, non sono mai perfetti se non alla fine della realizzazione del programma. Tutto ciò premesso, occorre dire, e io non ho ascoltato l'intervento del Ministro, che noi stiamo ragionando di un programma che va avanti da 18 anni e che adesso sta per arrivare a conclusione, e da parte degli altri paesi, mi credo si faccia riferimento in particolare al Canada e all'Olanda, non è che c'è un ripensamento, c'è sulla base anche delle esigenze finanziarie, delle ristrettezze, delle difficoltà, che ci sono l'intenzione di una rimodulazione negli acquisti degli aerei. E da questo punto di vista io credo che anche il nostro paese, quando nel 2015 avremo tutti gli elementi per ritenere insieme ai nostri alleati che il prodotto è un prodotto finito, potrebbe valutare una modalità di rimodulazione dell'acquisto. Tenga conto che su questa materia noi stiamo comunque discutendo di come si rinnova la flotta aerea del nostro paese e non di come si acquistano nuovi strumenti di guerra, come si dice. Gli strumenti di guerra, ahimè, noi già li abbiamo, sono gli AMX, sono i Tornado, sono quelli con i quali il nostro paese è già intervenuto in alcune missioni internazionali. Noi dobbiamo solo ammodernare, e qui naturalmente dobbiamo farlo, anche perché sono aerei che stanno andando in disuso, e dobbiamo farlo sapendo che il nostro paese è impegnato non soltanto in politiche di pace, ma anche in una seria riduzione delle spese militari. E quindi tutta questa campagna non facciamo gli F-35 perché dobbiamo fare gli asili nido è una campagna priva assolutamente di fondamento, perché noi dobbiamo ragionare rispetto agli F-35, non solo rispetto agli F-35, le anticipo che noi abbiamo un problema molto serio di rinnovamento della flotta marina del nostro sistema di difesa, abbiamo un problema di ammodernamento dell'esercito. E dobbiamo fare tutte queste cose nell'ambito di una riduzione del budget destinato alla difesa, perché è giusto in questo momento non solo ridurre le spese militari, ma anche privilegiare le spese, diciamo, relative alle questioni che hanno un impatto sociale più immediato. Gennaro Migliore, capogruppo di Sinistra Ecologia e Libertà alla Camera, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Eccoci qua. È solo propaganda dire F-35 per asili nido, cioè non compriamo gli F-35 e facciamo gli asili nido. Guardi, la peggiore propaganda da che mondo è mondo è quella militarista, è quella che dice che abbiamo bisogno, come ha detto infelicemente il ministro Mauro in Parlamento, per amare la pace, armare la pace. È qualcosa che appartiene proprio ad un'altra epoca storica, una retorica senza senso che rappresenta anche molto male quelli che sono gli interessi nazionali del nostro paese. Non bisogna essere dei collaudatori di Joint Strike Fighter per essere contro questi strumenti da guerra, che sono tra l'altro nella versione ultima modificati per poter montare delle testate nucleari. Mi si dica per quale motivo il nostro paese dovrebbe acquistare degli strumenti del genere nel cosiddetto riammodernamento del sistema di difesa, nel momento in cui noi siamo per esempio sottoscrittori di un trattato di non proliferazione. Sappiamo benissimo che sul nostro territorio nazionale, nelle basi americane, ci sono testate nucleari. La verità è che c'è un interesse diverso del nostro paese rispetto a quello degli Stati Uniti. Ritengo che sia assolutamente indispensabile raggiungere ragionare seriamente su quali debbano essere le destinazioni dei fondi anche per il sistema della difesa italiana. Si stanno facendo una serie di tagli al personale, per esempio, delle forze armate, che vengono pressoché tutti destinati all'acquisto di nuovi sistemi d'arma. Questi sistemi d'arma sono peraltro dei sistemi che hanno la necessità di grandissimi appalti che vengono ad essere l'elemento determinante spesso della discussione pubblica e anche, diciamo, tra gli stati che coinvolgono grandi multinazionali e grandi interessi. C'è da parte nostra la necessità di riconvertire l'unica grande azienda italiana che in qualche modo è ancora un'azienda manifatturiera sotto il controllo dello Stato, che è quella di Finmeccanica, in un'attività che non sia semplicemente quella militare, ma dovrebbe avere la possibilità di fare degli investimenti importanti anche nella tecnologia civile. Penso che dire che si debba sostituire l'investimento degli F-35, magari questo può piacere di più al senatore Latorre, di sostituirlo con un intervento magari legato ad un nuovo sistema di trasporto a basso impatto ecologico, che sia assolutamente in linea con il piano industriale rinnovato che dovrebbe avere l'Italia, per quanto ci riguarda è un obiettivo molto, molto significativo ed importante. Il punto sì. È questo. E poi voglio dire una cosa: c'è bisogno di una diversa organizzazione, della onestà politica, se mi si può dire, perché è stata votata una pessima mozione, criticata persino dal Consiglio Supremo della Sicurezza e quindi da Napolitano in prima persona, nella quale un partito come il PD diceva che ci sarebbe stato un blocco degli acquisti degli F-35. La stiamo perdendo migliore. Adesso facciamo una cosa, ci prendiamo una pausa per la viabilità e poi voglio sentire anche qualche ascoltatore. Scusate, vi ho trascurati un po' questa mattina. 9 in punto. Qualche messaggio sulla nostra bacheca Facebook. Umberto Masci dice: tra tutte le spese che uno Stato deve affrontare, questa è la più inutile e dannosa. Emanuele Donetti esprime una posizione più articolata: se di un programma internazionale si tratta, al programma dovremmo riferirci per capire meglio. Le decisioni internazionali di solito sono frutto di ragionamenti lunghi e particolari, come del resto ci ha spiegato anche il ministro Mauro, che vedono interessati non solo le amministrazioni che in questo caso finanziano, ma naturalmente anche le imprese. Angelo Chiello: non conosco i dettagli del progetto e l'affidabilità del mezzo, parla più che altro del fatto di acquistare questi aerei dagli Stati Uniti. Qualche ascoltatore invece al telefono all'800 24 0024, Bruno da Milano, che è in attesa da parecchio. Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Bruno Carotti, sono del Movimento 5 Stelle, ma parlo a livello personale. Quando lei ha chiesto al ministro riguardo ai tagli e ai sacrifici, il ministro ha parlato che hanno fatto grandi tagli tagliando la comunicazione e le spese di una parata. Sinceramente questo è prendere in giro gli italiani. È giusto che gli ascoltatori sappiano che i costi diretti del Ministero della Difesa italiano sono più del doppio di quelli del Ministero della Difesa francese. Inoltre segnalo a tutti gli ascoltatori che non c'è solo il problema dell'acquisto degli F-35, ma anche il riammodernamento delle fregate della Marina Militare italiana. Guardi, è quello che ci stava dicendo Latorre proprio un attimo fa. Adesso chiederò conferma alla Torre su queste cifre, perché non, in tutta sincerità, non le conosco. Cioè il bilancio paragonato ai costi diretti della difesa italiana rispetto a quella francese, sinceramente non lo so. Sentiamo qualche altro ascoltatore nel frattempo. Stefano da Torino, buongiorno. Stefano non ci sente. David da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Ascolti, volevo chiedere cortesemente una cosa al ministro. Noi facciamo che, parte non c'è della... più, che non c'è più, però. Che non c'è più, però. Insomma. Ah, vabbè, comunque, noi facciamo parte di un'alleanza composta di 28 paesi. Che senso ha che ognuno prosegua per conto suo ad acquistare 100, 200, 300 aerei, quando nel complesso 200 aerei, per esempio, potrebbero essere più che sufficienti per difenderci da qualunque altro nemico esistente al mondo? Domanda interessante. Buongiorno. Sentiamo anche Maurizio che ci chiama da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Dunque, breve, mi raccomando, breve Maurizio, sì, mi raccomando. Di essere breve, sì. Se assumiamo che gli F-35 vanno bene, io sono un ex militare, perché siano necessari e potrebbe essere possibile, però dobbiamo mettere nel conto un piccolo particolare. Io sono un padre di famiglia. È per strada o su una pista di decollo, Maurizio? Purtroppo sono sul Lungotevere. Prego. Praticamente ho una macchina di 15 anni che fa 7 al litro, mi piacerebbe comprarne una nuova che fa 14, ma non c'ho i soldi per comprare i pantaloni a mio figlio. Dove cacchio vado a comprare l'F-35, la macchina nuova? Aspetto fra 5 anni se l'economia si è rimessa in piedi. Grazie Maurizio per la sua osservazione, e con rumori di decollo di sottofondo che in realtà è il traffico del Lungotevere. Allora La Torre, innanzitutto le direi sull'osservazione, su quest'ultima osservazione che ci ha fatto Maurizio, insomma, no? Che è l'osservazione che ci fanno molti alla fine. Guardi, andiamo per ordine. Innanzitutto non è affatto vero che il nostro bilancio è più consistente di quello francese, anzi il bilancio francese della difesa è enormemente più grande del nostro, anche perché la Francia ha un'idea della politica della difesa piuttosto aggressiva, che soltanto con la crescita di una prospettiva di un sistema di sicurezza europeo potrà essere, diciamo, ridimensionato com'è nei nostri auspici. Io qui vorrei aprire e chiudere una parentesi: io credo che noi dobbiamo lavorare con grande determinazione per orientarci verso un sistema europeo della sicurezza, e per quanto mi riguarda, nel mio piccolo, sto impostando tutto il lavoro della Commissione Difesa concretamente su questa lunghezza d'onda. Secondo, il bilancio della difesa italiano negli ultimi anni è quello che si è ridotto in percentuale maggiormente rispetto a tutti gli altri paesi. Sì, è quello che ci ha detto anche Mauro, un 19%. Terzo, l'osservazione che faceva l'ultimo ascoltatore è un'osservazione del tutto ragionevole. Questo significa che noi dobbiamo modulare l'acquisto degli F-35, ma in generale dobbiamo modulare tutto l'ammodernamento del nostro sistema di difesa con una consapevole riferimento alle nostre disponibilità. Questo programma è un programma che si consumerà in una la parte dell'acquisto degli F-35, non la parte della realizzazione, che la parte il prodotto sarà finito nel 2015, e noi nel 2015 potremo dire il programma si è rivelato perfetto. E temporalità dell'acquisto è poi spalmata su un numero di anni enorme. Tenga conto che la previsione che si è fatta di vita di questi aerei è fino al 2047, non so se ne ha parlato il ministro di questo, la temporalità dell'acquisto sarà spalmata su un lungo numero di anni, e dunque non c'è dubbio che noi dobbiamo modulare il nostro rinnovamento sulla base di due principi. Primo, come vanno progressivamente in disuso i nostri aerei. Secondo, come si rapportano questi acquisti alle nostre disponibilità finanziarie. Detto questo, tutto questo non mette in discussione un dato oggettivo. Noi siamo una parte di un programma condiviso con altri paesi, abbiamo già preso degli impegni, abbiamo già speso una certa quantità di soldi, e dunque noi dobbiamo a questo punto, anche la mozione che è stata approvata in Parlamento e la discussione che si è aperta relativa al tema del Consiglio Supremo di Difesa, questi programmi comunque la si pensi, hanno una fase istruttoria, hanno una fase operativa. È giusto, è assolutamente giusto che il Parlamento decida i programmi di investimento, è giusto, è assolutamente giusto che ne controlli lo sviluppo. Nella fase operativa non si possono in ogni circostanza metterli in discussione, perché questo non è nell'ordine delle possibilità, tanto più quando si è parte di un consesso internazionale che condivide un programma. Gennaro, migliore per chiudere, insomma, alla fine l'idea di modularlo nel momento nel quale abbiamo l'attrezzo fatto e finito, l'F-35 fatto e finito davanti, sappiamo com'è, come funziona, che efficacia ha e anche le nostre condizioni finanziarie, dettaglio non irrilevante naturalmente, insomma in quel momento si decide ed eventualmente si modulano gli acquisti su quella base. Lei che dice? Mi sembra, a naso mi sembra ragionevole, però insomma magari sbaglio. Se fosse vero, diciamo, ma il punto è che tutto quello che è stato detto con una lunghissima dissertazione del senatore Latorre non è quello che sta accadendo realmente. In realtà i contratti sono già in essere, si stanno realizzando da molti anni gli investimenti e anche le intese per acquistare questi strumenti, questi F-35, si è di fatto abbandonata quando c'è stato il governo Berlusconi e nessuno l'ha più rimessa in discussione. Il programma Eurofighter, che aveva invece una caratteristica europea, si è preferito e privilegiato avere un altro tipo di investimento, per cui io che vorrei parlare seriamente del sistema di difesa italiano mi trovo costretto a dire che bisogna onorare degli appalti di grandi multinazionali come quelle che nel corso degli anni sappiamo hanno saputo, come dire, convincere con molti strumenti coloro i quali dovevano poi sottoscriverli. Per cui in questo momento io penso che c'è bisogno solo di fare una riflessione molto serena sulle condizioni reali del nostro paese. Il nostro paese gli F-35 non ce li può permettere. Vorrebbe e credo dovrebbe impegnarsi in un modello di difesa europeo e quindi investire su questo. Non può avere degli strumenti che possono montare delle armi nucleari e quindi in questo senso io penso che il programma di acquisto degli F-35 non vada rimodulato, che non vuol dire nulla, non so neanche che cosa significa, ma vada sospeso. Migliore, io su questo mi scusi, la devo interrompere perché sennò mi troncano perché c'è la pubblicità. Discussione interessante, magari un'altra volta ci torniamo, perché no, e magari con gli stessi interlocutori. Grazie Latorre, grazie Migliore, grazie Alessandro Marcotulli, redazione, Peter Besca per regia, a tutti voi per l'ascolto, a domani. Ricordati! Mancano 84 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente. 9 in punto.